Allora, cosa vedremo in questa mostra? Inaugura oggi la mostra Before di Silvia Böckli. Silvia Böckli è una delle artiste più importanti a livello pittorico internazionale, un'artista svizzera che da tempo riflette sul significato della pittura, su cosa voglia ancora dire oggi per un artista impegnarsi in quella che è considerata da tutti come la più famosa delle arti visive contemporanee. Quando abbiamo invitato Silvia Böckli a far parte di una mostra al Museo Morandi di Bologna, l'abbiamo fatto anche perché pensiamo che il messaggio morandiano sia ancora vivo, sia ancora possibile per gli artisti contemporanei trovare nuovi significati dalla lezione morandiana e lo possa ancora fare con nuovi stimoli e nuove metodologie. In questo caso Silvia Böckli è partita da una riflessione, come dice il titolo, Before, prima, su cosa sta prima della pittura, che cosa succede nello studio del pittore, quali sono le forze, i colori, le idee, i presupposti per partire a livello compositivo. Ecco, sappiamo che per Morandi la fase della composizione pittorica era forse quella più importante. Nel chiuso del suo studio in via Fondazza o a Grezzana Morandi, Giorgio Morandi passava giorni interi a predisporre sui piani di posa i suoi oggetti, agiva sugli oggetti, li pingeva fuori, li riempiva di gesso, li tracciava con una matita sul tavolo da posa fino a trovare l'equilibrio perfetto e dipingerlo in modo anche veloce. Quindi c'era un lavoro preliminare, un lavoro attento e meticoloso. Su quel tipo di lavoro Silvia Böckli risponde con le sue pitture, pitture fatte di colori pieni che riprendono la tavolozza di Morandi, quindi c'è stato un attento lavoro anche sulle cromie che lei stessa, visitando casa Morandi, disse: sono stata sorpresa da quanto i colori di Morandi siano in realtà colori accesi. Morandi ha questa fama di usare toni tenui, ocra, pastello, invece la tavolozza di Morandi è una tavolozza estremamente ricca cromaticamente, e lei è partita proprio da queste suggestioni, ha fatto delle composizioni inedite presentate al pubblico per la prima volta in occasione di questa mostra e che ha messo in dialogo con delle nature morte del pittore, presenti nel nucleo di opere che compongono il Museo Morandi, curiosamente scelte tra le opere degli ultimi anni 50 e 60, ovvero quando Morandi aveva la stessa età di Silvia Böckli oggi. Quante opere troviamo in mostra dell'artista? E quelle dell'artista sono considerabili come una grande installazione di dipinti, anche se composta da diversi dipinti, ed è messa in dialogo stretto, quindi abbiamo dato a disposizione dell'artista un'intera sala in dialogo stretto con 8 nature morte morandiane scelte dalla collezione del museo.